Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Giulia Crivelli, ancora buongiorno da Giulia Crivelli, rieccoci come ogni sabato con la rassegna stampa europea e parliamo di Ucraina, anche se trovate altri articoli naturalmente sui giornali di oggi, sulla cronaca e Radio 24 vi aggiornerà, perché la situazione, sapete, è tutt'altro che chiara e non si capisce bene dove si finirà, però come sempre cerchiamo magari di dare spazio alle analisi. Allora, da Internazionale, che è in edicola da ieri, vi segnalo un articolo apparso su Svezia, che è una rivista russa, il vero volto dell'ideologia di Mosca, e per quanto riguarda c'è un passaggio su quello che sono le misure europee, perché sapete che l'Unione Europea sta cercando disperatamente di avere un ruolo nella soluzione di questa crisi, un ruolo che in realtà sembra aspettare più agli americani in questo momento. E scrive Svezia: le sanzioni approvate dagli Stati Uniti e dall'Europa contro alcuni alti funzionari russi sono un'altra conseguenza della primavera russa. Nell'ambito del processo di purificazione dell'elite statale, queste sanzioni possono avere effetti positivi. Solo una drastica limitazione della ricchezza dei dirigenti statali e dei deputati può smascherare i traditori della nazione, salvaguardando l'immagine dei dipendenti statali onesti, perché sapete che in Russia si è creata questa nuova, diciamo, nuova aristocrazia di oligarchi, naturalmente molto vicini a Putin. Alcuni di loro sono proprio quelli che sono stati sanzionati e ai quali, per esempio, queste misure varate dall'Unione Europea di comune accordo con gli Stati Uniti impediscono per esempio di viaggiare. Sono misure così contro questa decisione di Putin di annettere di fatto una parte della Crimea, che però per ora hanno avuto pochi effetti, perché sapete che sembra che Putin non si accontenti di quel pezzo di Ucraina che è passato alla Russia. Ma veniamo sempre da Internazionale, vi segnalo invece un articolo apparso sulla Zeit, che è questo settimanale tedesco, che in realtà è un po' strano, alla forma di un quotidiano, ha una grafica che ha vinto tantissimi premi perché fanno un uso delle infografiche molto originale e bello. E questo approfondimento è dedicato, tra l'altro il direttore è si chiama Di Lorenzo ed è per metà italiano, ma naturalmente residente in Germania da moltissimo tempo. Questo articolo è dedicato alla deflazione, che sapete è un po' il contrario dell'inflazione, cioè quando i prezzi cominciano a scendere, e l'articolo si intitola "I pericoli della deflazione", che cos'è la deflazione, questa è la prima definizione, e poi c'è un approfondimento su che cosa potrebbe fare la BCE, la Banca Centrale Europea. Sicuramente Mario Draghi sempre dichiarato guerra all'inflazione, però forse ora si dovrà cominciare a pensare appunto alla deflazione. Allora, scrive la Zeit, lo strumento più importante delle banche centrali è il tasso di interesse. Se i prezzi aumentano troppo, l'istituto alza il tasso per rendere più costosi i crediti, le imprese investono di meno, l'economia si raffredda. Se i prezzi aumentano poco, si riducono, deflazione, la banca abbassa il costo del denaro. In questo momento la BCE non può ridurre di molto i tassi di interesse perché sono già vicini allo zero e quindi dovrebbe ricorrere ad altri strumenti. Si sta pensando per esempio di imporre una penalità alle banche che depositano i loro fondi presso la BCE, spingendole a concedere prestiti più favorevoli alle imprese e ai consumatori. Questo tema naturalmente del credit crunch, dei prestiti, è attualissimo perché sono le persone normali che hanno bisogno per esempio di un mutuo, e sapete i dati sui mutui erogati sono scesi moltissimo, ma sono naturalmente anche le imprese che hanno bisogno di soldi per investire. Quindi molto interessante questo articolo della Zeit. E poi, visto che in questi giorni abbiamo anche ricordato i 5 anni dal terremoto dell'Abruzzo, che ha lasciato le sue conseguenze soprattutto all'Aquila, che resta di fatto ancora una città fantasma, ma sappiamo anche quanto lacunosa sia stata, per usare un eufemismo, la ricostruzione al di fuori dell'Aquila, e quanto sia umiliante per le persone che ci vivono in queste vivere in queste città ricostruite, in questi moduli abitativi ricostruiti intorno all'Aquila. E La Press, che è una rivista canadese, ricorda appunto questo terremoto 5 anni dopo, e una giornalista, Mathilde Ovilan, è andata all'Aquila per un reportage e ricorda queste 309 vittime, le 70.000 persone sfollate che di fatto ancora oggi non hanno trovato una soluzione. E si parla anche dei fondi europei che sono stati sicuramente erogati e poi usati male, come sono stati usati male anche moltissimi, purtroppo, purtroppo soldi stanziati dal nostro governo italiano. Ma su questo naturalmente ci sono tutte le inchieste della magistratura, che purtroppo come sempre in Italia andranno per le lunghe. Intanto però le persone continuano appunto a non poter tornare nelle loro case dell'Aquila, che ripeto è una città fantasma, e soprattutto continuano a vivere in queste case provvisorie, che tra l'altro salta fuori, sono assolutamente inadeguate, mostrano già dopo solo 5 anni problemi con le fognature, con il riscaldamento e con moltissimi altri aspetti. Ma cambiamo un po' paese, andiamo in Germania. La Süddeutsche Zeitung, che sapete è un giornale che citiamo spesso, un giornale del sud della Germania, che ha parlato di evasione fiscale, ne stiamo naturalmente, è un argomento di cui si parla moltissimo anche in Italia. Questo è un dato che la Süddeutsche Zeitung pubblica e naturalmente paragona anche a quelli degli altri paesi dell'Unione Europea, perché in Germania nel primo trimestre del 2014 sono triplicate le autodenunce da parte di evasori fiscali, sono state 13.000 rispetto agli stessi mesi del 2013. C'è forse, scrive la Süddeutsche Zeitung, un po' il problema del fallimento di un accordo tra Berna e Berlino per sanare una specie di sanatoria che era nell'aria. Questo accordo non è arrivato. Poi naturalmente c'è il caso di Uli Hoeneß, l'ex presidente del Bayern di Monaco, che è finito in prigione per evasione fiscale, quindi un po' di paura, ed ecco che le persone si autodenunciano. E poi c'è un articolo invece che vi segnalo della Börse Zeitung, un giornale finanziario. Qui si parla del Fondo Monetario Internazionale, dell'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, che sostiene le iniziative della BCE per rivitalizzare il mercato degli ABS. È un meccanismo naturalmente un po' tecnico, però sono quelle cartolarizzazioni che sottostanti i mutui e i prestiti alle aziende. Questo è una pratica che appunto potrebbe servire, abbiamo detto prima del credit crunch, lo ha detto José Vinals, che è il numero uno del Dipartimento del Mercato dei Capitali del Fondo, e lo ha spiegato appunto a questo quotidiano tedesco. Vi segnalo, abbiamo ancora pochissimo tempo, vi segnalo quello che ha scritto Financial Times sulle nomine. Sapete, questa è stata la settimana delle nomine tanto attese, le nuove nomine delle aziende di Stato. Le più importanti sono sicuramente Eni e nelle Finmeccanica, ma ci sono anche le Poste, c'è Trenitalia, e Financial Times ha definito la tornata di nomine decise da Matteo Renzi, con tante donne alla presidenza, il massacro della vecchia guardia italiana. Era purtroppo l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, ci risentiamo però domani mattina, e come vi dicevo, tenete da parte quello che non riuscite a leggere oggi, ci sarà tempo domani e lunedì per leggerlo. Lunedì i quotidiani non saranno in edicola. Buona giornata a tutti e a domani da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.